qua in diretta su Radio Città Fujiko, giornata di forza, giornata d'arte, il giovedì puntuali 8:02 minuti, è il 14 dicembre, già in esposizione la mostra organizzata dall'Associazione Bologna per le Arti, con noi ormai formazione fissa per queste puntate di fine anno 2023 in mostra mattiniera, Viola Balugani, buongiorno Viola. Buongiorno, ciao a tutti. Com'è la situazione traffico oggi? Ma no, era abbastanza buona. Okay. A quest'ora qua non c'è tanto traffico. E poi io quando arrivo alle 9 dopo... Hai qualche problema in dopo più? Sì. Allora cominci a intuire e a vivere la bellezza nell'essere mattinieri. Con il Breakfast Club, la prima colazione in diretta, c'è anche questa possibilità a essere mattinieri ed averne tutti i vantaggi. È un po' più freddo, ma c'è meno traffico. Dai, qualche ora in meno, qualche minuto in meno di sonno, ma ne vale la pena. E poi il Breakfast Club, ovviamente. E il regalo che ci porta Bologna per le Arti, l'organizzazione che da anni a Palazzo da Curzio e non solo ha avuto un percorso espositivo per la Bologna Pittrice, che guarda caso è una rassegna da cui quest'anno appunto anche la stessa associazione Bologna per le Arti andrà a far parte. Quest'anno avremo un artista che ha lasciato tanta curiosità, seppur breve periodo di vita, tanto talento, grande capacità di interpretazione, ma ne parleremo ovviamente non solo qua con Viola, con William Piana, il sottoscritto della rubrica in mostra, ma anche con la curatrice, che saluto e ringrazio, Francesca Sidigaglia, Museo dell'Ottocento a Bologna, per quanto riguarda la sua direzione, il presidente dell'Associazione Bologna per le Arti Gian Arturo Borsari, Isabella Stancari, co-curatrice della mostra dedicata a Giovanni Masotti. Partiremo a breve però, siccome è all'interno della rassegna Bologna Pittrice, con la voce di Roberto Martorelli, che conosciamo grazie a Certosa Estate e non solo. Intanto Viola, partiamo con un breve identikit per quanto riguarda le notizie da noi apprese per questo artista Giovanni Masotti. Allora, Giovanni Masotti, protagonista di questa mostra, che nasce nel 1873 e purtroppo muore molto giovane a causa della sifilide, di una malattia. E la mostra si chiama, intitolata Turbamento ed Estasi, e si trova appunto a Palazzo da Curzio e cerca di ricostruire la vita e l'operato di appunto Giovanni Masotti, presentando all'incirca 70 opere, tra cui dipinti, disegni, bozzetti, decorazioni. E anche la sua pagella. E anche la sua pagella, è vero. Era un po' inquieto. È vero, è vero. Vogliamo, un po' irrequieto, ma si sa, genio e sregolatezza vanno spesso a braccetto. Del Collegio Venturoli ne abbiamo già parlato, questa istituzione che dava la possibilità a giovani nati in condizioni poco abbienti, da famiglie povere, che venivano così presi a vitto alloggio, in quanto così degli scout del Collegio Venturoli avevano notato una capacità artistica e un'ispirazione come dono naturale. Tra questi vi era Giovanni Masotti. Masotti. E noi iniziamo allora, a proposito di Bologna per le Arti, con la voce di Roberto Martorelli, in questo caso Bologna Pittrice, questo incontro, anzi diversi motivi di esposizione e anche incontri veri e propri, di cui vi parleremo nel corso della trasmissione. In questo caso con Martorelli daremo una visione estesa di quello che è il progetto Bologna Pittrice. Cominciamo questa conversazione con Roberto Martorelli, finalmente ci ritroviamo, ennesima organizzazione di fusione di contenuti culturali e artistici. Buongiorno Roberto. Buongiorno a tutti. Di che si tratta in questo caso? Parte un grande progetto che durerà fino a giugno, ma vi presentiamo solo la prima parte, dedicata alla pittura bolognese dell'Ottocento. È una vastissima programmazione che parte dal 1 dicembre e finirà il 17 marzo. Penso che per la prima volta sono coinvolti tutti insieme antiquari, istituzioni e associazioni culturali su un progetto proprio sulla valorizzazione del patrimonio bolognese, della pittura bolognese dell'Ottocento. Partiamo dall'organizzazione, quindi organizzatrici? Tutta l'iniziativa è promossa dal Museo Civico Bologna, partendo dal Museo Civico del Risorgimento. Io e Isabella Stancari abbiamo avuto questa idea, insomma, di questa sorta di progetto diffusissimo, perché va in tutta l'area metropolitana. Poi abbiamo i grandi partner che sono il Comune di San Giovanni Persiceto, la Fondazione Casa di Risparmio, Genus Buonogne e Ascom Confcommercio, e poi, che è talmente lunga che non me la ricordo neanche, ci sono tipo altri collaborazioni, certo, varie sedi espositive, anche questo è un elenco. Al momento sono tre mostre, cioè prima della mostra diffusa, okay, che presenteremo a marzo, ce ne sono tre. Quindi al momento due sono già aperte, una è la Carlotta Gargalli al Museo 800, l'altra è da un antiquario, la Galleria De Fusari, dedicato ai pittori e decoratori dell'Emilia Ars, e poi a breve aprirà anche la mostra annuale dell'Associazione Bologna per le Arti in Sala Farnese a Palazzo Comunale, dedicato al pittore Giovanni Masotti. E aggiungiamo anche altri artisti in questa iniziativa quanto mai lodevole? Diciamo che questo primo programma sarà valorizzare il patrimonio che si vede, che c'è, quindi si faranno conferenze, visite guidate, trekking urbani, una rievocazione storica per Carnevale, e quindi sostanzialmente valorizziamo personaggi a partire da Pelagio Palagi, uno dei grandissimi protagonisti della pittura neoclassica italiana, bolognese ovviamente, e poi arriveremo fino all'apertura del Novecento con artisti come appunto Giovanni Masotti, che per la prima volta viene finalmente ricostruito un catalogo ampio di sue opere, che è una cosa lodevole dell'Associazione Bologna per le Arti. C'è una declinazione al femminile, pittrice, c'è un'attenzione quindi anche a tutto ciò? Sì, purtroppo è che di artiste donne che sono un po' emerse dall'ombra ce ne sono veramente poche, ma noi contiamo sul lavoro di Museo 800 Bologna, che vuole proprio puntare sulla valorizzazione di queste artiste, scovandone anche di totalmente ignote. Certo, questo addirittura poi è qualcosa che per Bologna e non solo ha una grandissima importanza. Abbiamo detto tante cose, i contenuti saranno diversi come i percorsi, lo svolgimento è esteso, e per trovare informazione si può andare sul nostro sito del Museo del Risorgimento, museibologna.it/risorgimento, o, visto che è anche un grossissimo lavoro di contenuti offerti gratuitamente al pubblico, sul sito del Museo Civico del Risorgimento, Storia e Memoria di Bologna. Grazie Roberto. Grazie a voi. Sarà portata dagli Incognito nei loro primi lavori, il perché ve lo spiegherò poi passin passino attraverso le voci protagoniste di questa mostra, da Francesca Sinigaglia, curatrice, co-curatrice Isabella Stancari, avremo anche il presidente Gian Arturo Borsari, Bologna per le Arti, Giovanni Masotti, Turbamento ed Estasi, Palazzo da Curzio fino al 9 febbraio 2024. Certamente ho voluto iniziare con questa pillola portata da Roberto Martorelli perché nell'estesa visione di Bologna pittrice questo incontro ora in essere è una sorta di inizio, ma per quanto riguarda i percorsi di Bologna per le Arti cito alcuni artisti che abbiamo vissuto con grande stupore, una Bologna purtroppo sottovalutata nell'epoca protagonista, cioè l'Ottocento e primi del Novecento, ma sottovalutata a volte anche per quanto riguarda questi aspetti artistici nella diffusione e nella fruizione. Qualcosa sta cambiando finalmente da un po', grazie a questi giovani protagonisti, giovani ormai affermati, voglio dire, non possiamo certo definirli senior, Roberto Martorelli, Francesca Sinigaglia, Ilaria Chia, come ho già parlato più volte, Roberto ha citato anche Isabella Stancari che sentiremo a breve, ma vorrei citare i veri protagonisti, cioè gli artisti che abbiamo vissuto con l'Associazione Bologna per le Arti: Luigi Busi nel 2017, Bertelli, Guidi, Maiani, Norma Mascellani, e Giovanni Romagnoli, insomma Alfredo Protti che è stato il primo con il Breakfast Club a essere portato in mostra. Quindi ogni anno a questo regalo che arriva vicino a Natale fino all'inizio dell'anno successivo terrà compagnia a un pubblico attento e appassionato, ovviamente per Bologna e non solo. Quali emozioni in questo primo impatto hai avuto, Viola, nell'ammirare queste opere? A me è piaciuto tantissimo, soprattutto appunto lui è molto bravo nell'uso del colore, a me piace molto. Poi, come avevo detto a Willy, a me piacciono molto i dipinti di paesaggi, che purtroppo non ce ne sono tanti, però comunque sono stupendi. C'è un'intuizione nel paesaggio, per quanto riguarda un viaggio, in un catalogo, per così dire. Ecco, lui, iniziamo subito su quello che può essere nell'immediato interpretato come un motivo di critica. Non è una critica, lui è un perfetto interprete in tutte le sue sfaccettature di un'epoca. Non è, ecco, se vogliamo, un innovatore, ma è capace di leggere perfettamente tutte le emozioni, tutte le realtà artistiche. Parliamo di impressionismo, post-impressionismo, divisionismo, l'informale, addirittura con un'opera che a me è piaciuta oltremodo, fino ad arrivare veramente a qualcosa di totale nella sua eterogeneità. Comunque parleremo anche di alcune opere dove vi è un gioco con la luce e con il colore, come già vi ha anticipato Viola, importante, presente anche il simbolismo, l'arte sacra, un artista che porta stupore e nello stesso tempo una bellezza estetica non certamente banale, anzi tutt'altro, un bel regalo alla città di Bologna e non solo. Quindi iniziamo con Francesca Sinigaglia i nostri motivi di conversazione, per dare giustamente spazio a chi ha lavorato nell'esposizione Turbamento ed Estasi, Giovanni Masotti. Un'altra mostra al Palazzo da Curzio, come ogni stagione a fine anno, quest'anno con un protagonista che dal primo sentor di immagini mi pare veramente qualcosa di straordinario. Si tratta di Giovanni Masotti, siamo con Francesca Sinigaglia, ben ritrovata Francesca. Ben ritrovati a voi, sono sempre molto felice di iniziare questa avventura con voi. Carichi di entusiasmo, iniziamo con un identikit di questo artista. Allora, Giovanni Masotti nasce nel 1873, quindi quest'anno festeggiamo anche i 150 anni dalla nascita, tra parentesi, e muore nel 1915, a 42 anni. Purtroppo muore molto giovane. Siamo negli stessi anni di Augusto Maiani, ricordiamo 3 anni fa, quindi è il fin de siècle, ma allo stesso tempo lui purtroppo interrompe completamente la sua vita a 42 anni, perché contrae una malattia molto brutta che era tipica degli artisti del periodo, la sifilide, e quindi a un certo punto è costretto a essere rinchiuso in un ospedale psichiatrico perché la sifilide prende la testa. Tra atroci sofferenze, dopo un anno di stanziamento nell'ospedale psichiatrico di Collegno, viene a mancare. Abbiamo trascritto la cartella clinica di Masotti, veramente ogni giorno purtroppo era costretto a subire delle cose terribili. Alla fine, appunto, nel 1915 muore lontano dalle sorelle, lontano da Bologna, all'ospedale psichiatrico di Collegno. Ed è giusto quest'anno veramente rivalutare un artista che ha subito una sorta di damnatio memoriae, e lo celebriamo con una grande mostra unica, veramente per la prima volta, con quasi 70 opere. Per quanto riguarda questo sventurato artista, scomparso giovanissimo, dici le caratteristiche e l'importanza dei suoi percorsi artistici. Allora, Giovanni Masotti appunto attraversa il fin de siècle, quindi siamo alla fine dell'Ottocento. Il suo maestro putativo è sicuramente Luigi Serra, quindi maestro anche al Collegio Venturoli, putativo appunto, perché lui ebbe come maestro Tartarini e Barberi, però di fatto sicuramente fa parte del naturalismo di fine secolo, un approccio al vero molto evidente. Si avvicina anche a un altro grande artista bolognese che è naturalmente Raffaele Faccioli, e poi a metà alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, addirittura abbraccerà anche una piccola parentesi liberty, soprattutto nella parte decorativa, per poi finire negli anni 10 del Novecento ha una conoscenza, tra virgolette, non dichiarata, ma sicuramente conoscenza anche del divisionismo. Parliamo di un artista che è riscoperto non per la prima volta, nel senso che c'erano già stati degli approfondimenti, ma il corpus pittorico viene per la prima volta ricomposto con molte opere, quindi siamo in grado adesso di ricostruire anche un percorso che prima, stilistico, che prima naturalmente non era possibile fare, o comunque era possibile fare in parte. può dire, beh, William ha avuto dei deliri, poi spiegherò anche gli Incognito nelle loro prime opere, perché l'abbinamento musicale e non solo. Ho citato l'informale anche in questo caso. Beh, ma cosa stai dicendo? Allora, sappiate che vi è un'opera in mostra che porta un campo con una fioritura estremamente legata a questa emozione, e troviamo questi fiori d'aprile con Chantecler e il suo regno. È stato commentato anche in questo modo, dove Chantecler è una razza di pollo, è un gallo, infatti c'è questo gallo che sta razzolando insieme alla sua corte, lui molto regale, spicca ovviamente per il colore, non solo, anche per quello che vuole comunicare nell'immagine l'artista. Sullo sfondo parlavo di informale perché vi sono questi fiori d'aprile che riportano un'idea di ninfee, di Monet se vogliamo, e allo stesso tempo da lì una partenza con un gioco che dà spazio a questa sensazione di informale. Pensate quante ispirazioni che vi sono osservando in mostra, in un viaggio che assolutamente ti travolge e ti perde nelle epoche e nelle ispirazioni artistiche. Questo è uno dei lavori che mi ha colpito di più, proprio per questa immagine di fioritura estremamente rigogliosa, ma che nello stesso tempo dà un'idea di immagine come vi ho descritto in precedenza. Ma non solo, il verismo, un neoclassicismo, un aspetto romantico tra Fattori e Hayez, il divisionismo di Segantini, insomma, nell'immagine paesaggistica citata da Viola poc'anzi troviamo anche dei lavori che ricordano Vittorio Corcos. C'è un catalogo esteso di interpretazione artistica che da metà 800 fino a inizio 900 veramente non fa scappare nulla, anche la luce in un lavoro tra il sacro e un'immagine di anticipo d'avanguardia, con il simbolismo tra il colore e questa vergine in estasi alle spalle, un Cristo che domina, è qualcosa di veramente molto simbolista, quindi un artista nelle sue interpretazioni totale. Avremo modo poi di trovare altre opere. Vi ho parlato di un aspetto romantico, il verismo e quello che è anche una denuncia. Non manca in tutto ciò. Segantini è stato un artista divisionista e nell'opera La morte di Anita Garibaldi vi è un'attinenza molto spiccata a tutto ciò. Hai portato qualche opera che ti è rimasta nelle immagini, veramente qualcosa che ha inciso in questo percorso, Viola? A me è piaciuta molto Bandiera Bianca. Vabbè, quello è definito il capolavoro. Esatto, molto. No, mi è piaciuta veramente tanto. Poi non so se c'entri qualcosa, ma mi ha ricordato un po' La libertà che guida il popolo di Delacroix. Certo, altro artista che può essere ripreso, brava. Tra le attinenze, ecco, non ho pensato, ma ci può essere questo aspetto. E qui arriviamo agli Incognito. Gli Incognito sono degli interpreti, ma certamente di grande valore. Hanno portato soul, funky, jazz, un mainstream pop di grande qualità, una rassegna musicale portata poi a inizio anni 90 a un ascolto apparentemente facile, mentre invece molto rappresentativo per tutte le emozioni in musica che ho citato poc'anzi. Noi continuiamo con i nostri motivi di dialogo nella seconda parte con Francesca Sinigaglia, curatrice dell'esposizione Turbamento Estasi Giovanni Masotti. Infatti, dalle immagini che nell'immediato ho trovato, ho notato l'importanza del divisionismo nella sua ispirazione e oltretutto diverso poi il motivo di crescita, quanto mai eterogeneo, entrando in mostra come è stata strutturata l'esposizione. Allora, l'esposizione è molto semplice, perché come dicevamo, come dico sempre, devo capire prima io e poi facciamo capire agli altri, perché devono essere cose semplici ma chiare, anche perché appunto è la prima volta che viene indagato questo artista. Quindi sono sei sezioni che percorrono il suo percorso artistico e di vita, quindi dagli inizi, quindi il periodo della formazione con le Gioventù Roli. Come ho detto, è stato costernato di sfortune questo artista, oltre al fatto che muore molto giovane, anche la madre era morta, quindi lui rimane orfano di madre, insomma, quindi è costretto ad entrare al Collegio Venturoli. Quindi la prima, diciamo, sezione dedicata al Collegio Venturoli e poi la sua formazione, perché vince una borsa di studio al pensionato Angiolini, che va a Roma, va a Firenze, va a Pisa, e poi le grandi esposizioni nazionali e locali, quindi concorso curlandese Varese, concorso Baruzzi, premio Baruzzi, che vince nel 1902 con una straordinaria opera che è Bandiera Bianca del Mambo, che abbiamo preso appunto per la prima volta in mostra qua, ed è un'opera che viene anche esposta dallo stesso Masotti durante l'inaugurazione del Passo del Sempione del 1906, assieme ad artisti come Galileo Chini, insomma. Quindi grandi concorsi che prendono, diciamo, dagli anni 95 dell'Ottocento fino al 1905, indicativamente. E poi l'opera di arte sacra, pensate, anche questo tutto inedito. Lui aveva collaborato per la decorazione di alcuni archi del portico di San Luca, e quindi c'è un'opera straordinaria di grandi dimensioni che di solito è alla chiesa della Santa Maria e San Domenico della Mascarella, che abbiamo preso e abbiamo sostituito con una riproduzione fotografica, e possiamo vedere in mostra anche per questa opera portentosa, poi la parte decorativa e infine il periodo di Aosta. Per concludere, le tue emozioni, perché è carica di entusiasmo e comprendo questa sensazione che condivido. Veramente una sorpresa anche per me, è stato un anno complesso perché naturalmente trovare tutte queste informazioni, abbiamo trovato gli eredi, che l'artista muore nel 1915, vi assicuro che trovare gli eredi non è stato facile, però hanno messo loro a disposizione delle opere che non si sono mai mosse dalla casa di Masotti per 100 anni, e le abbiamo in mostra per la prima volta qua. Insomma, io sono contenta, ringrazio il presidente Gian Arturo Borsari che ha dato la possibilità appunto di scegliere naturalmente questo artista, e tutta l'associazione Bologna per le Arti, perché ogni anno veramente fa i miracoli e mi fa piacere far parte appunto di questo grande ingranaggio, ecco. Grazie. Grazie per quello che state facendo per la nostra città e non solo. Grazie Francesca. Grazie a voi, a presto. Quattro, do il buongiorno a Lino e a Wolf, anticipando anche il prossimo e ultimo appuntamento. Saremo più vicini a Rovigo con un'esposizione che ci farà conoscere due personaggi assolutamente da non perdere. Quindi Lino, ci avviciniamo un po' anche alle nostre terre, anche se so che adesso ti stai un pochettino spostando come me del resto, quindi non so se ci daremo il cambio, però insomma abbiamo la possibilità di trovarci magari a metà strada per questa esposizione rodigina di cui parleremo nella prossima puntata. Ma intanto restiamo a Bologna, e come, finalmente Bologna e l'Associazione per le Arti, che come ho detto, dopo Luigi Busi, Alfredo Protti, per citarne alcuni, Norma Mascellani, Augusto Maiani, Giovanni Paolo Bedini, insomma un all star game di artisti che va al culmine con Giovanni Masotti 1875-1915, quindi una vita veramente breve, qualcosa di istantaneo, eppure così tante ispirazioni. Sì, infatti per aver avuto una vita molto breve comunque ha fatto molte cose, anche appunto molto eterogenee, non sempre la stessa cosa, non sempre la stessa corrente artistica, quindi no, molto bello. Poi una cosa bella della mostra che a me è piaciuta anche come è stata organizzata, il fatto che sia uno spazio molto piccolo nel quale però siano presenti opere molto grandi anche. Quindi c'è una comunicazione, sì, questo aspetto logistico di percorso in mostra, dove in brevi passi, poi anche nell'introspezione della visione artistica, comunicare e guardare come i cambiamenti poi abbiano un grande filo conduttore nel turbamento e nell'estasi. Palazzo da Curzio sarà fino al 9 febbraio, ha citato Francesca Sinigaglia. Oddio, ho detto qualcosa. 4 febbraio. Ah, ok. Allunga, magari la prorogano, Viola. Non so perché ho detto 9, magari dico ci sarà un allungare del periodo d'esposizione. Ah, poi tu non sai, ma io con le date sono tremendo, questo è un piccolo sbaglio, è roba da ridere. Hai fatto bene, sei molto precisa, la nostra Harry Potter, non sbaglia un colpo. Un'altra opera, Leonardo che dipinge la Gioconda, qua lì per me è veramente Dosso Dossi nel Giove che dipinge farfalle, ecco questa interpretazione d'artista per quanto riguarda il grandissimo ferrarese che va nel mito e nella classicità, in questo caso invece uno sguardo a una sublime opera, storia a tutti i tempi dell'arte, La morte di Anita Garibaldi, un'altra opera che ha molto a che fare con un divisionismo italiano, e quindi le emozioni sono veramente tante per Palazzo da Curzio. Bologna per le arti tornerà nella seconda parte della rubrica in mostra con, già citato da Francesca Sinigaglia che ringrazio, con la voce del presidente Gianarturo Borsari, tutto ciò dopo la pubblicità. A tra poco. Beh, questi non sono gli Incognito, vi dirò poi la formazione che sta eseguendo queste interpretazioni. Ero molto indeciso sul commento musicale, quindi farò un po' e nella seconda parte darò le note a commento dell'esposizione protagonista, la ACM con Ralph Towner, chitarrista veramente molto talentuoso. L'abbiamo conosciuto al Bologna Jazz Festival, al Torrione Jazz Club Estense, ma non solo, al basso Glenn Moore, Paul McCandless, all'Oboe. Anche per questo ho voluto portare questa formazione, per l'interpretazione e l'originalità, e con Wilcott alle tablas, ecco, quindi già una strumentazione di insieme che veramente dà eterogeneità, allo stesso tempo una sorta di grande gusto estetico e poesia. Ecco Viola, io non ti chiedo di ripetere perché i grandi talenti non si ripetono, però l'ultimo spot era sulla cena e la voce ora ufficialmente di questa bambina è una Viola più o meno tra i 4 e i 5 anni, ha registrato la sua voce, l'ha riproposta e messa a disposizione. No, l'originale è la voce di Viola, anche se non certo in età infantile, ma è lei la protagonista. Nel ricordarvi che questa sera alle ore 20:30 Villa Paradiso, via Emilia Levante 138 a Bologna, la grande cena di Radio Città Fujiko. Ma che menù che hai enunciato? Che menù? Infatti mi dispiace non venire stasera. Anche a noi tanto. Però restiamo ancora a tema in mostra, perché l'esposizione presentata dà possibilità anche di diversa interazione con il pubblico. Può intanto iniziare con i vari momenti di incontro con appassionate e appassionati. Sono vari, iniziamo dal primo. Si tratta di... Allora, giovedì 11 gennaio 2024... un incontro dal titolo Giovanni Masotti, turbamento ed estasi, nuove indagini per ulteriori approfondimenti. Vi è scritto dove si tiene? Diamo ulteriore informazione. Sono sempre a Palazzo d'Accursio. Nella sede espositiva. Sì. Bologna per le Arti, presidente Gian Arturo Borsari. Siamo riusciti a intercettare anche due battute con Gian Arturo Borsari, sempre carico di entusiasmo e, se vogliamo, anche un pochino di giustificata, assolutamente giustificata, che condivido, polemica. Però intanto ascoltiamo anche questa intervista. Iniziamo questa conversazione che va a corredare la presentazione per l'anticipazione sull'esposizione dedicata a Giovanni Masotti. Siamo con il presidente di Bologna per le Arti, Gian Arturo Borsari, che ritroviamo, al quale do il buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per essere qui presenti. Noi siamo molto fieri oggi di presentare una antologica di un pittore molto sconosciuto ai bolognesi, ma molto meno invece per chi è fuori Bologna. Abbiamo realizzato questa mostra con grosse difficoltà, però grazie alla dottoressa Sinigaglia e alla dottoressa Tancari siamo riusciti a portare a termine questa difficilissima antologica. Continua il lavoro di ricerca e di indagine sugli artisti bolognesi che hanno avuto dei percorsi o un merito per avere un podio, che purtroppo è stato un pochettino lasciato da parte. È la linea dell'associazione. Ma la ringrazio per l'aggettivo pochettino, io direi enormemente trascurate e tralasciate da parte, anche perché io con tutti i giornalisti spiegherò il perché e per come io ho voluto fortemente fare questa antologica di un pittore purtroppo morto giovane, ma di una caratura artistica notevole. E quindi un altro protagonista per l'associazione che ho citato in precedenza. Lo stato di salute dell'associazione, facciamo così due chiacchiere in generale, perché è un momento dove capisco che Bologna ha, come di consueto, un'importanza molto notevole per l'arte e la cultura. In questo caso? Lei si riferisce alla Bologna per le Arti. Non viviamo di buona salute, ma direi di ottima salute, perché sennò non riusciremo a portare a termine certe iniziative. Direi questo, che Bologna, diciamo, come città potrebbe fare molto di più per i suoi artisti. Purtroppo non posso andare oltre questo e devo dire per fortuna che c'è la Bologna per lei. Appunto, che noi ringraziamo e seguiamo come ogni anno. Orientale e Loud Anwar Brahim, sempre per SM, lo troviamo con John Sarman e Dave Holland al basso elettrico. Per SM il lavoro che dà continuità alla colonna sonora eterogenea e oltretutto con presenze strumentali, non dico atipiche, ma che insomma non sono così frequenti. Abbiamo ascoltato in precedenza Lobo e nel trio e nel solo di Ralph Towner con Glenn Moore. Procediamo aggiungendo a queste sonorità anche la voce a Loud di Anwar Brahim. Altri motivi di incontro, con delle voci fra l'altro da seguire, anzi noi come Breakfast Club, tra l'altro ho letto nel comunicato che avremo Roberto Martorelli quando? Esatto, giovedì 18 gennaio con un incontro dal titolo Giovanni Masotti e la pittura di sfondo sociale tra cronaca e denuncia. Appunto. Bello, ricordiamo Bandiera Bianca tra l'altro a questo proposito. Bandiera Bianca, lavoro preso dal Mambo, dove scioperanti soppressi con la violenza dalle forze dell'ordine portano stremati Bandiera Bianca. Bandiera Bianca è questo bambino infante in fasce che viene esposto e mostrato a chi sta portando violenza a una folla che ormai è stremata sia per condizioni sociali e per motivi di lotta. Quindi onore al merito a questo approfondimento. Ve n'è un altro, mi pare. Sì, giovedì 25 gennaio, Vecchi miti e nuovi eroi, arte in Europa tra 800 e 900, con Giuseppe Virelli del Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna. La nostra presentazione conclude con Isabella Stancarico, curatrice dell'esposizione, già presentata in Bologna, pittrice da Roberto Martorelli, e quindi ascoltiamo Isabella e concludiamo la nostra rubrica in mostra di oggi, giovedì 14 dicembre. Ora con la co-curatrice per l'artista Giovanni Masotti, Isabella Stancarico. Saluto, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Allora, questo lavoro ha impiegato diverso tempo e anche uno studio non indifferente. Gioie e dolori di tutto ciò. Sì, effettivamente sì, anche perché Giovanni Masotti è un artista che non passa tutta la sua carriera artistica a Bologna, ma a un certo punto prende la decisione di trasferirsi, di dedicarsi all'insegnamento, quindi si trasferisce ad Aosta e quindi c'è tutta una parte della produzione di Masotti dopo che lascia Bologna che era del tutto sconosciuta. Quindi un lavoro di ricerca non indifferente. Oltretutto abbiamo trovato un'eterogeneità nella sua espressione artistica. Ci puoi un pochettino accompagnare in mostra in questa biodiversità artistica? Beh, la mostra mostra tutto lo sviluppo artistico di Masotti attraverso gli anni e parte dalla giovinezza, da quando entra dodicenne al Collegio Venturoli, quindi chiaramente il suo modo di dipingere cambia molto attraverso gli anni, e in mostra ci sarà la possibilità di vedere sia i disegni giovanili di quando veramente è un ragazzino e un adolescente che sta al Collegio Venturoli e che studia, quindi sono delle prove di studio, dove la pittura ha una qualità già alta quando già è molto giovane e si vede in tanti piccoli studi e tavolette, poi si arrivano alle cose della maturità dove c'è tutto un altro trattamento della superficie, dei materiali, una pittura molto più materica, molto più ricca. Andiamo anche oltre confine, se volessimo inventare oppure trovare motivi di ispirazione per quanto riguarda un aspetto più esteso, geograficamente anche parlando, possiamo avere un motivo dialogico con altri artisti da parte di Masotti? Ah beh sì, certamente. Il fatto è che in genere dei pittori bolognesi dell'Otto, primo Novecento, di cui già si conosce poco, si conosce ancor meno di tutto ciò che fanno poi quando si allontanano da Bologna. E quindi sarebbe il caso di cercare di aprire gli studi su quello che succede a questi artisti bolognesi che lavorano a livello nazionale. E poi molti vanno verso il Piemonte, verso Torino, quindi Masotti si spinge anche più in là verso Aosta, però moltissimi che si formano qui a Bologna, noi a Bologna li conosciamo poco, li conoscono in altre regioni italiane perché lì vanno a lavorare. Io ti ringrazio tantissimo e complimenti per il lavoro che avete donato alla nostra città e non solo. Grazie mille. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata dedicata all'arte, la rubrica in mostra, stavolta non sbaglio, è fino al 4 febbraio 2024, Palazzo d'Accursio, Giovanni Masotti, Turbamento ed Estasi. Grazie Viola anche per il lavoro di curatela e montaggio delle interviste, perché c'è tutto un lavoro di preparazione. Ma far radio, voi parlate facile, beh insomma direi che questa è la parte più immediata, quella più esposta, dietro il lavoro di redazione insomma è qualcosa che dà costruzione poi a quello che ascoltate. L'importanza di giovani redattori e giovani redattrici è fondamentale, non solo per lo spot che ricorda la cena di questa sera, ma per la produzione che trova poi spazio nelle dirette di Radio Città Fujiko. Quindi grazie Viola. Grazie a te. Domani andiamo in scena sui 103.1, seconda parte per il lavoro da grande, voglio fare l'aggettivo, avremo Andrea Santonastaso dopo aver ascoltato nella giornata di ieri il regista Nicola De Bonazzi, compagnia Teatro dell'Argina, ITC Teatro, sarà protagonista alzando il sipario sui 103.1. A breve di Per Enciclopedico, a seguire Liberi Dentro, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, dopodiché il grande rock sui 103.1 con Angela Zocco e Andrea Gozza. Sarà la mattinata di oggi, giovedì 14 dicembre. La prima colazione in diretta sarà presente puntuale domani alle ore 7 come vigilia di weekend, il venerdì di Radio Città Fujiko al Breakfast Club. Caloroso abbraccio, buona giornata, grazie per l'attenzione. Quindi su Radio Città Fujiko vi salutano Viola Balugani e William Piana. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.